Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Domenico Menniti, 69 anni, il prossimo 6 aprile, calabrese di nascita, campano d'adozione. Grazie al fisico possente, la parlantina da giovane ha oscillato tra la pallacanestro e la giurisprudenza, poi ha scelto la moda. Nel 95 insieme ai tre fratelli fonda la Harmon e Blaine. Prima le cravatte, poi pigiami e costumi da bagno extra large, infine le camicie da uomo. Coloratissime, anche tre colori insieme che se sbaglia a combinarle, come dice il fratello Paolo, rovini tutto. Un nome inglese, un bassotto e una sede in una delle aree più degradate del napoletano hanno fatto di questo marchio uno dei simboli del Made in Italy nel mondo. Allora, signor Menniti, ma se di Made in Italy si tratta, perché avete scelto un nome inglese? Ma il nome inglese viene, come ha ricordato lei, dalla necessità di rompere con una nostra vecchia produzione. Di primo acchitto pensammo alle cravatte. Le cravatte, il micro disegno inglese, tanto ma, per intenderci. Ma insomma, questo Harmont è un acronimo del nome di sua madre, Anna, e del suo secondo marito Renato Montefusco, è così? Sì, è così, inglesizzato con l'H, con l'H davanti. E invece Blender, per darsi un tono, questo H? Avevamo deciso di fare queste cravatte con i disegni, con i micro disegni inglesi, era l'epoca, noi dobbiamo sempre riportarci. Collocare, certo. in e quei Blaine tempi. Da dove viene? A un certo momento c'era la necessità, qualcuno disse, ma questa finale tronca è molto, molto dura, vediamo di metterci il secondo nome. Era l'epoca di ce n'erano tanti, devo dire, tanti brand. Senta, ma poi c'è... Poi c'è il bassotto, il vostro logo, un cane tedesco che però la gente associa all'Inghilterra. Anche qui di italiano, Made in Italy, ben poco. Perché il bassotto? Ma il bassotto è l'animale che ha una doppia anima. Sembra nell'immaginario collettivo riporta alla brughiera inglese, invece è un cane tedesco. La gente lo intende come un cane da compagnia e un cane da caccia che non ha struttura fisica, non ha forza, non ha potenza, e ha due elementi, l'intelligenza e il fiuto. Eravamo noi. Ma vi vergognavate di essere semplicemente napoletani? No, non ci avevamo proprio pensato. Se vi chiamate Menniti non andava bene, no? No, ci potevamo chiamare Menniti, Montefusco, potevamo chiamarci in tanti modi. È venuta quella ed è stata anche un'idea vincente. Inizialmente non tanto, perché scritto come lo scrivemmo allora in corsivo inglese era praticamente una macchia illeggibile. Incomprensibile. E quel logo, il bassotto, serviva ad identificare, ad identificarci. La prima cosa che mi viene in mente, un amico che acquistò delle cravatte nostre e mi disse: da quando io utilizzo queste cravatte non metto altro. Dico, ma cosa sono? E non mi ricordo, sono le cravatte del bassotto. E ci aveva dato oggi, il payoff. Ok, oggi questo bassotto, malgrado le gambe corte, è andato lontano. Quanto fatturate? Ma il bassotto con le gambe corte è l'animaletto che esce da sotto il terremoto e si scrolla e continua a camminare. Appunto, e quanto fatturate adesso? Oggi fra uomo e bambino tocchiamo i 90 milioni di euro, circa 600 dipendenti diretti e 1200 di indotto. Obiettivo di qui a 4 anni, raddoppio del fatturato e poi vedremo. Ecco, avete iniziato con aprire negozi nelle location più belle d'Italia: Capri, Portofino, Portorotondo, poi siete andati a Miami, a Doha, a Dubai, a Hong Kong, sempre con la stessa idea: il lusso accessibile. Questa è un po' la vostra caratteristica. Ma esiste il lusso accessibile? Lo riporti al concetto delle automobili. Oggi si vendono le automobili di un certo livello e si vende la piccola, la city car. Lusso, dove finisce il lusso accessibile? Dove finisce? Dove finisce? Finisce da Harmont & Blaine. Speriamo che in tanti lo comprendano. Senta, ma il lusso è uguale dappertutto? Avete location, avete negozi dappertutto. Vede, io ritengo che nel momento in cui parliamo con il cliente cinese, il cliente russo, il cliente messicano, dobbiamo diventare, sforzarci di diventare un po' cinesi, un po' russi, un po' messicani. È facile o difficile? È complesso, perché dobbiamo adeguare la nostra, il nostro modo di pensare alla loro esigenza. Le faccio un esempio. Abbiamo aperto nel 2014, con accompagnati da Sofia Loren come madrina, la boutique in Piazza Rossa a Mosca. Sì. Bene, noi i clienti russi, i moscoviti ci apprezzavano. Avevamo dimenticato una cosa. Cosa? Il copricapo con i paraorecchi. Ma certo, lei fa un freddo cane. Lei immagini in Italia, insomma, nel quadrilatero della moda, a mettere un berretto di quel genere. Ma a Mosca ci vuole quello. La configurazione del cliente cinese per i pantaloni. Ma avete rimediato, l'avete messo? Ovviamente. Ovvio, dopo un'ora, va bene. Ovviamente, insomma, noi insomma possiamo fare un errore. Cinese invece di caratteristica nel lusso, cosa vuole per cinesizzarlo? Il cinese vuole un prodotto esclusivo, un prodotto che lui può incontrare quando esce fuori dal suo mondo nelle vabbè, ma posizioni. Dica in particolare che cosa. Là no. Abbiamo capito il capricapo. Con no, le no, ma il copricapo era un'esigenza per intenderci. Che, e in che Cina serve. Qual è l'esigenza? Era il cavallo dei pantaloni diverso, perché hanno una conformazione diversa, però alla fine è la capacità e la volontà di identificarsi in un prodotto che senta Menniti, è di successo. Ok, lei ha detto nei nostri negozi entrano tutti, da D'Alema a Ruzziuart a Casillas, il portiere della nazionale spagnola. Rappresentano il lusso accessibile questi personaggi, no? Dipende molto anche dalle singole nazioni. In Centro-Sud America siamo posizionati in una maniera altissima, sull'alto in paesi tipo Francia, molto, molto apprezzato nei paesi arabi. Anche Giuliano Ferrara è stato ritratto al mare con i vostri costumi. Lo sa che anche lui tre bassotti? Ma il bassotto ti prende l'anima. Lo sapeva? No, non sapevo che avesse i cani, ma so che assolutamente il bassotto è uno dei cani che ti prende il cuore. Sì, che ti prende assolutamente. Senta, oltre a Ferrara, testimonia l'inconsapevole al bassotto. Hanno prestato la faccia Fiorello, Bonolis, Cannavaro e Gassman. È vero che per convincere Cannavaro ci ha messo un quarto d'ora? No, è stato Cannavaro a convincere me un quarto sì? d'ora. All'epoca, datiamo anche quello, siamo nel febbraio del 2006, avevamo a giugno i campionati del mondo. Noi in un quarto d'ora raggiungiamo l'accordo e usciamo in campagna. Cioè, riusciamo d'accordo vuol dire che l'ha pagato. E quanto l'ha pagato? Prestizione. Non lo dirò mai, neanche bravo, sotto tortura. Ma testimonial funziona solo in Italia o anche all'estero? No, funziona all'estero. L'immagine, tenga conto che dopo la vittoria dei mondiali, l'immagine di Fabio era il volto dell'Italia. Fabio ha un'immagine che buca lo schermo. Certo. Era immediatamente riconoscibile, sì. E ci ha aiutato in Cina, molto. Ci ha aiutato nei paesi arabi, molto, e funziona. Oggi funziona. Però, se dovessi dire, sceglierei gli amici, ma è sempre la logica è sempre quella. Siamo nel 2006. Adesso 16? No, all'epoca, sì, certo. 2006, sono passati 10 anni. Ma la velocità con cui sono modificati gli atteggiamenti è incredibile, è un altro mondo. Stiamo chi prenderebbe adesso? Stiamo ragionando su fatti molto strani, nel senso che oggi la comunicazione si fa o come la fa lei, grandissima professionalità, o c'è quello strano aggeggio che noi abbiamo davanti, che è il web. Mentre noi stiamo pensando a una soluzione, quella è diventata già vecchia. Insomma, a voi cosa pensate? Immagini, c'è gente che decide i destini suoi e i destini miei e che nessuno conosce, o perlomeno... Non esageriamo, no, senta. No, no, Forse quello... vale per la sua produzione. No, quando lei ha avuto in mano il primo telefonino, pensava mai di essere che quell'aggeggio... Vabbè, non mi ha detto chi sono i suoi ideali. Sono delle categorie. Non lo sa ancora. Non mi servono i bambolotti. Va bene. Marco Boglione, che è il patron di Robe di K, ha detto che l'Italia è il miglior showroom del mondo. Lei è d'accordo? Assolutamente sì. Perché? Assolutamente sì, l'Italia è ancora un punto di riferimento assolutamente interessante. Quindi per vendere all'estero bisogna prima convincere gli italiani, questo un po'? No, non convincere gli italiani, bisogna essere presenti nelle location giuste. Quanti negozi avete in Italia? Ne abbiamo 72. E all'estero? All'estero sono circa una sessantina. Obiettivo è di raddoppiare quelli all'estero, ci stiamo muovendo. Abbiamo appena aperto Parigi, Boulevard des Capucines. Ma se lei dovesse scegliere tra Bassolino De Magistris alle prossime amministrative di Napoli, chi vorrebbe vestire, chi vorrebbe avere come testimonial? No, testimoni a niente. Vabbè, vorrei avere. No, vorrei avere una città che funziona. Non faccia dire una cosa. No, sono democristiano. Bravo, però non lo faccia troppo. Io vorrei qualcuno che quando lei arriva con l'aereo a Napoli le potesse presentare l'ingresso in quella città in maniera decente. Chi fra i due, ma non solo i due. Vabbè, cioè, adesso parliamo dello due. Voglio chi abbia esperienza, le esperienze ce l'hanno tutte e due. Se dovessi scegliere fra l'uno e l'altro, sceglierei il Bassolino. Ecco, okay. Quindi il ritorno del Bassolino è un buon ritorno? È una cosa positiva, secondo lei? Rispetto a quello che si sta presentando. Sì, e De Magistris che sindaco è stato? Dove ha sbagliato? A fare il sindaco. Perché? Ritengo che poteva continuare a fare forse il magistrato, forse con miglior fortuna. Non si può essere buoni per tutti i mestieri. Io ritengo... Vabbè, l'ha detto, mi sembra chiaro. A proposito di Napoli, lei ha detto a Napoli si può. Eppure, a parte voi, a Napoli sembra che ci sia, che sia più quello che non si può. Siete una mosca bianca in qualche modo? No, siamo un alveare di api. C'è un'imprenditoria che non si vede ma che c'è? No, e perché non si vede? Dovrei fare dei nomi, ossia nella moda maschile, i Keaton, gli Attolini, gli Isaia, insomma siamo i Marinella, siamo assolutamente i leader nel mondo di quel tipo di settore. Abbiamo obiettivamente delle difficoltà. Senta, molti di noi hanno dovuto investire svariate decine di milioni per creare le loro postazioni su Milano. Il mio competitor ha dei risparmi sui costi grandi di svariati milioni. Senta, Venditti, la sede della vostra azienda è a Caivano, che è un piccolo comune della periferia abbastanza degradata di Napoli. Perché proprio lì? Era quella di Caivano, è una splendida area industriale dove c'è la più grossa fabbrica di gelati d'Europa. Era uno spazio che noi nell'88 trovammo dal consorzio ASI. Vabbè, insomma, l'avete scelto perché? Ed è baricentrica, in fregio all'autostrada, a 10 minuti dall'aeroporto e sull'autostrada. Quindi funziona. Era ideale per... Oltre alla campagna, avete laboratori in Calabria. La scelta del sud quindi è una scelta vincente o è una missione in qualche modo? È una scelta di anima e di testa. Abbiamo tempo fa cuore e passione, insomma. No, cuore e passione, ma c'è questo fatto della Calabria, c'è un aneddoto interessante. A seguito di un'intervista con Panorama, un sindaco mi chiamò, non lo conoscevo, non sapevo neanche cosa le ha detto. Dice: c'è un nucleo di persone che faceva maglieria. Noi, per fargliela breve, siamo andati, abbiamo riattivato una serie di laboratori. Oggi ci sono una settantina di persone che lavorano attorno a questo progetto. E invece di dare di fare un omaggio, un regalo, abbiamo messo in condizione la gente di insegnato a pescare invece che regalare il pesce. Senta, nella sua storia imprenditoriale, Ci sono tanti successi, ma anche momenti di difficoltà. Siete partiti fabbricando dei guanti nell'86. Il successo è durato poco, è andata male, però guanti a Napoli. Pensare che andasse bene era difficile. Perché? No, non lo so, fa caldo. No, i guanti non si facevano a Napoli. Avevamo il 90% di export. Però è andata male, perché? No, non è andata male. Abbiamo scelto di qualcosa che avesse una logica di futuro. Vabbè, dai guanti siete passati alle cravatte. Un giorno Armani e Versace hanno detto l'era delle cravatte è finita. E quindi cosa vi siete inventati? E ci siamo inventati dei costumi da bagno estremamente colorati, ma era molto difficile, molto complesso, nessuno di noi sapeva fare nulla. Però l'avete fatto bene. Ma c'era uno dei nostri fratelli, Paolo, che è lo stilista capo dell'azienda, che non sa tenere una matita in mano. Ma per ha delle, sì, no, per fortuna dico, perché poi sennò ci si perde. Però aveva delle idee e cominciamo a lavorare. Però poi una sera lei è passato davanti a un pastificio che si chiamava il papero giallo. Cosa c'entra la pasta e il papero giallo con uno che vuol fare moda? No, ma quello era in un'epoca di transizione, quando insieme alla cravatta, per superare la difficoltà di uscire dal mercato della guanteria e sopravvivere fino a quando imboccavamo poi la strada giusta, cominciamo a fare questo intimo... intimo strano, il boxer con le pezze al sedere, che noi chiamavamo il finto povero. Ci mancava il nome di questa storia. E poi l'avete trovato. E quel papero giallo era il paperino che si svegliava la mattina, e l'imbranato tutto sommato. E anche quella fu una storia di successo. Ecco, lei ha detto, io sono uno che evita di lamentarsi perché le lacrime non me le asciuga nessuno. E questa è la chiave del successo. Credo proprio di sì. Non devi aspettare che ti venga offerta l'opportunità. Diamoci da fare, aiutati che il ciel t'aiuta. Ma non solo questo, scegliti la strada più difficile, perché sarà difficile all'inizio, poi quando arrivi a metà strada trovi meno gente... che ti concorrenti. Esattamente. Ecco, con questa filosofia, nel 2014 avete anche vinto un'altra importante battaglia, davvero importante, contro la contraffazione in Cina, dove avete dovuto chiudere ben 12 negozi. Ma come avete fatto? Beh, anche là, testardaggine. Abbiamo scelto un buon studio legale in Italia, ma l'abbiamo... in Cina contro la contraffazione? Sono quattro casi italiani che hanno ottenuto questo risultato, ma si continua. Ora credo che la Cina andrà affrontata, nonostante le lamentele, le preoccupazioni. Questo è un paese di quelle dimensioni, che cresce solo del 5,5-6%, insomma, ci dà qualche problema, ma insomma. Stiamo affrontando un rapporto con Alibaba, questo grosso provider. Ma la stessa cosa però è successa anche in Libano, un negozio monomarca, tutto finito, però avete vinto anche lì avvocati? Anche lì un ottimo avvocato, questo signore che aveva aperto il 15 di dicembre, giustamente aveva fatto della pubblicità su Facebook locale, e i nostri clienti libanesi si sono un po'... Preoccupati a fine gennaio abbiamo sequestrato questo locale. Vabbè, allora è solo sulle spiagge italiane che invece la contraffazione vince e stravince. Abbiamo, negli ultimi 6 anni, abbiamo fatto oltre 800 cause. Siamo... Ma le vincete? Le vinciamo. Quelli che vengono presi sono in Italia, però, fra virgolette, i poveri disgraziati. Poveracci, appunto. Quindi in Italia contro la contraffazione si fa poco? No, non si fa poco. Abbiamo un ottimo rapporto con la Guardia di Finanza, con la Procura della Repubblica, con le procure della Repubblica. Vabbè, ma se lei viaggia sulle spiagge italiane, se vende tutto. E che dobbiamo fare? In fondo però essere copiati vuol anche dire essere arrivati. Noi possiamo sbagliare, i falsari e chi copia non sbaglia mai. Senta, oltre alla linea di moda dell'uomo, donne, bambini, avete inaugurato una linea di caffè. Perché caffè? È un momento di aggregazione. La nostra linea non è di quelle che ma vengono è una diversificazione interpretate. No, non è una diversificazione. Da fuori ci vedono non perché sappiamo fare bene gli abiti, non perché sappiamo fare bene la pasta, e complessivamente il modo di vivere italiano. Senta, è il modo di vivere italiano. Ho capito, vendete uno stile di vita. Ecco, un profumo. Ma oggi l'azienda è ancora in mano a voi quattro fratelli? Abbiamo... Cioè, come vi siete divisi i compiti? Beh, io ho sempre seguito la gestione amministrativa e la parte. Senta, diciamo, però, di rapporti. Fra quattro fratelli, alla fine uno che comanda ci deve essere. Chi è lei? No, litighiamo molto. Sì, poi... ma uno che comanda ci deve essere, alla fine. Ma... cioè, si va di qua o di là. Ma sì, alla fine sì, sono stati gli altri a scegliere me per un certo tipo di percorso. Ora io, lo diceva lei, ho 69 anni. Si lavora come se si fosse eterni, ma eterni non si è. Ecco, nel 2014 il Fondo Italiano di Private Equity, Clessidra, è entrato con una quota del 35% nel capitale sociale. È cambiato tutto? Ed è entrato perché tutto cambiasse. Tutto cambiasse significa che noi ci stiamo preparando per un futuro diverso, affinché l'azienda... L'azienda sì, sia nelle condizioni di sopravvivere ai propri fondatori. Ma quello significa andare in borsa? Probabilmente sì, perché è una delle way out del fondo. Ma il passaggio generazionale è un rischio anche per voi? No, è questo. Ah. Questo significa no, avere... ma dico i figli, i nipoti... No, i figli, ci sono alcuni che sono dentro e occupano dei ruoli abbastanza importanti, ma che sono stati apprezzati anche da parte del fondo, che non è molto tenero. Altri li abbiamo in formazione, significa laureati alla Bocconi e sono in giro per il mondo. Ma quindi in Italia, secondo lei, il capitalismo familiare può ancora esistere o no? È un problema di intelligenza. Il capitalismo familiare, ossia l'azienda è una cosa, la gestione dell'azienda è un'altra, l'azionariato... Bisogna prepararsi a essere azionisti, insomma. No. Ove non sia non sia nelle condizioni di essere Senta, di essere manager. Che cosa vede nel futuro del Bassotto? Un grande futuro abbiamo davanti. Oggi abbiamo implementato alcuni progetti in Europa, Francia, Spagna. Fine anno spero di poter dire ok, è stata costituita la società per la gestione del mercato americano. Siamo 7 miliardi di persone nel mondo, volessimo raggiungere lo 0,1 insomma il Bassotto si prepara a diventare un Alano. Da Napoli si può. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Breaking news. Sono stati rilasciati i passeggeri del volo Egyptair che è stato dirottato questa mattina su Cipro, un volo che proveniva da Alessandria ed era diretto al Cairo. Il dirottatore avrebbe però una cintura esplosiva ed ha trattenuto con sé il personale della Egyptair e 5 stranieri che si trovavano a bordo del volo. È tutto. Sono dappertutto. Arrivisti, truffatori, ladri, corrotti. L'Italia sembra perduta. Eppure un manipolo di eroi resiste. Se non vuoi cedere al lato oscuro della forza, ascolta. Si può fare. L'unico inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini, il sabato alle 7:30 e la domenica alle 8:30 su Radio 24. Mix 24, i gialli della storia. Non l'ha mai voluta lui la scorta. Quando gliela imponevano diceva sempre perché tanto io c'ho lui, io ero armato e lui faceva affidamento su di me. È stato un uomo pubblico, fino alla radice dei capelli. Carlo ha avuto un'importanza straordinaria per lo sviluppo italiano. È stato uno degli ingegni migliori che ha avuto il paese. Si considerava, e fu,

e faceva 2 ore di piscina al giorno. Il nuoto è uno sport che, mentre lo si esercita, non consente di continuare a pensare alle cose che hanno occupato il cervello e lo rioccuperanno nel corso della giornata. Il problema con Carli talvolta era esattamente questo, cioè l'interlocutore dopo i primi approcci cominciava a pensare che in fondo era meglio stare a guardinghi, perché la persona che aveva di fronte poteva penetrarlo sin in fondo all'anima. Aveva un notevole fascino perché aveva un'immagine fisica molto maschia. Lui se la imponeva in qualche modo, faceva uno sforzo, perché in realtà era timido. Però proprio perché doveva vincere una sua debolezza, diventava un maschio molto brusco, molto profilato in quanto maschio, perché vincendo la debolezza non raggiungeva la giusta misura di mascolinità, la accentuava. Lui aveva un'intelligenza magnetica, aggiunta dal fatto che aveva un bel fisico e degli occhi celesti di acciaio. E quindi metteva in soggezione. Metteva in soggezione tantissimo. Un carattere schivo e riservato quello di Carli, che appena giunto al vertice di Palazzo Koch deve confrontarsi con le riforme in campo economico del centro-sinistra, e spesso le sue idee sono diverse da quelle del governo. Il 2 marzo del 62 il presidente del Consiglio Amintore Fanfani legge alle Camere il suo programma. Tra gli obiettivi c'è la nazionalizzazione dell'industria elettrica. Il 27 novembre del 62 la Camera dei Deputati approva in via definitiva la legge sulla nuova industria elettrica. Nasce l'Enel. In un colpo solo la Sade, l'Edison, la SIP, la SME, la Centrale, con tutte le loro strutture e impianti, passano nelle mani dello Stato. Ai privati resta un totale di indennizzi di risarcimento pari a 1.500 miliardi di lire. Assunsi una posizione nettamente contraria. Mi preoccupavano le conseguenze che la nazionalizzazione avrebbe prodotto sul funzionamento dei mercati finanziari, proprio in un momento nel quale si manifestavano le prime iniziative volte ad accrescerne la funzionalità. La stagione riformatrice del centro-sinistra è solo all'inizio. Nell'autunno del 62 sono in calendario altre importanti riforme. Tra queste la pubblicizzazione dei soli edificabili e l'abolizione del segreto bancario. Per Carli è troppo. Di fronte al rischio di un eccessivo intervento dello Stato nell'economia di mercato, occorre reagire. Ancora Eugenio Scalfari. Carli mi chiese un incontro riservato in terreno riservato con Riccardo Lombardi, sapendo che io ero molto amico di Riccardo Lombardi. Allora Carli disse: salta tutto il sistema se voi fate questo, perché ci sarà una fuga di capitali inarrestabile e quindi noi dovremo prendere provvedimenti monetari estremamente restrittivi, ma non basteranno perché la fuga ci sarà comunque. Voi vi ritroverete le masse dei piccoli agricoltori e dei piccoli artigiani che invaderanno le strade contro i socialisti, non contro la destra, contro di voi. Siete matti se portate avanti, diceva Carli. Dopo, alla fine, Lombardi si persuase, il Partito Socialista rinunciò. Carli ottiene il risultato che cercava, ma di lì a poco, nel 63, arriva la prima crisi della lira. Il boom economico subisce una brusca battuta d'arresto. Dopo anni di stabilità, l'inflazione schizza al 7%. Insieme al ministro del Tesoro Emilio Colombo, Guido Carli sceglie la strada del rigore. La linea Colombo-Carli suscita forti polemiche. L'economia rallenta e 140.000 operai perdono il lavoro. Ascoltiamo gli economisti Franco Spinelli e Roberto Panizza. È un continuo susseguirsi di queste accelerazioni frenate che ovviamente non fanno bene alla crescita economica. Ha accorciato terribilmente l'orizzonte decisionale, cioè uno non sapeva mai se dopo 3 anni i tassi sarebbero stati a un livello piuttosto che l'altro, perché ovviamente non sapeva come sarebbe andata, a che livello sarebbe arrivata l'inflazione, quale problema di riserve valutarie avremmo avuto. E questo tipo di politica ha creato che cosa? Dall'Italia delle fughe spaventose di capitali. Con le prime difficoltà arrivano per Carli anche le prime critiche. Diventa fondamentale stabilire un canale di comunicazione più efficace con i mercati e con l'opinione pubblica. Eugenio Scalfari lo sollecita a parlare di più, a comunicare meglio. Sul settimanale L'Espresso nasce allora una rubrica firmata da un misterioso pseudonimo, Bancor. A raccontarci com'è andata l'idea lo stesso Scalfari. Ascoltiamo poi Paolo Peluffo e l'economista Paolo Savona. E lui mi disse, ma io non posso però farti a te un'intervista 2 volte al mese, perché insomma diventa, poi la devo fare pure agli altri. Allora io gli dissi, noi parliamo, io poi mi vado a fornire gli ulteriori dettagli da Ciampi, dopodiché scrivo, lo firmo però con uno pseudonimo. Erano degli scoop terribili, a volte anticipavano spiegandole alcune scelte di politica monetaria che il sistema sociale e culturale italiano non aveva gli strumenti per comprendere. Era una, direi, alimentazione di informazioni privilegiate, giusto o sbagliato che sia, Carli aveva deciso di farlo tramite Scalfari, per poter poi raccogliere le reazioni nel sistema. E lui non voleva rileggerli. Lui dice, io lo leggo domani mattina, poi ti dico se hai azzeccato, se hai interpretato bene il mio pensiero, se diventa un pensiero tuo invece che mio, ecco. Ma se anche diventa un pensiero tuo, Bancor. Insomma, il governatore della Banca d'Italia scrive commenti con uno pseudonimo sul settimanale di punta dell'opposizione laica e di sinistra. È l'altro volto di Guido Carli, che convive con quello austero e rigoroso del Gran Commis di Stato. E gli anni di Bancor sono anche quelli della prova più difficile per Via Nazionale. Il rallentamento dell'economia e i mutamenti sociali inaugurano la stagione delle grandi rivendicazioni salariali. È l'autunno caldo del 69. Da qui riprendiamo dopo la pubblicità.